624. Tortelli di ceci. Eccovi un piatto che si usa fare in Quaresima. Ceci secchi, dico secchi perché in Toscana si vendono rammolliti nell'acqua del baccalà, grammi 300. Metteteli in molle la sera nell'acqua fresca e la mattina unite ai medesimi 7 o 8 marroni secchi e poneteli al fuoco con acqua ugualmente fresca entro a una pentola di terra con grammi 3 di carbonato di soda legato in una pezzettina. Questo il popolo lo chiama il segreto e serve a facilitare la cottura dei ceci. Invece del carbonato di soda si può usare la rannata. La sera avanti mettete i ceci in un vaso qualunque, copritene la bocca con un canovaccio ove abbiate messo una palettata di cenere. Fate passare attraverso la medesima dell'acqua bollente fino a che i ceci restino coperti e la mattina, levati dalla rannata, prima di metterli al fuoco, lavateli bene con l'acqua fresca. Cotti che siano, levateli asciutti e passateli per istaccio caldi, bollenti, insieme coi marroni. E se nonostante il segreto o la rannata fossero rimasti duri per la qualità dell'acqua, pestateli nel mortaio. Quando li avrete passati, conditeli ed aggraziateli con un pizzico di sale, con sapa nella quantità necessaria a rendere il composto alquanto morbido, mezzo vasetto di mostarda di Savignano o di quella descritta al numero 788, grammi 40 di candito a piccoli pezzettini, un poco di zucchero se la sapa non li avesse indolciti abbastanza e 2 cucchiaini di cannella pesta. In difetto di cavalli si cerca di far trottare gli asini, si va alla busca di compensi e in questo caso, se vi mancassero la sapa e la mostarda, la migliore al mio gusto è quella di Savignano in Romagna, si supplisce alla prima con grammi 80 di zucchero e alla seconda con grammi 7 di senapa in polvere sciolta nell'acqua calda degli stessi ceci. Ora passiamo alla pasta per chiuderli, in merito alla quale potete servirvi di quella de cenci numero 595, metà dose di detta ricetta, oppure della seguente: farina grammi 270, burro grammi 20, zucchero grammi 15, uova numero 1, vino bianco o marsala cucchiaiate numero 3 circa, sale un pizzico, tiratene una sfoglia della grossezza di mezzo scudo all'incirca e tagliatela con lo stampo rotondo smerlato della ricetta numero 614. Fate che nei dischi il ripieno abbondi ed avrete, riunendo nei lembi, i tortelli in forma di un quarto di luna. Friggeteli nell'ardo o nell'olio e quando non sono più a bollore, spolverizzateli di zucchero a velo. Con la broda dei ceci potete fare una zuppa o cuocervi, come si usa in Toscana, le strisce di pasta comperata. Questi tortelli riescono così buoni che nessuno saprà indovinare se sono di ceci.